casa non sono solo quattro mura. Una casa è famiglia, è amore, speranza, gioia, gioco, schiamazzi, allegria. La vostra casa per noi è la cosa più importante. Per questo ce ne prendiamo cura ogni giorno. Ciaccio Casa, un'azienda di professionisti per ristrutturare con progettazione 3D in omaggio, pratiche amministrative e certificazioni energetiche, falegnameria, impianti elettrici, climatizzazione, pavimenti, piccole riparazioni, incentivi fiscali fino al 65%. Ciaccio Casa, dal 1986 a Bologna, showroom in via della Barca 21, 051 61 78 281 o ciacciocasa.it. Ciaccio Casa, a misura di famiglia. Perché stasera vuoi andare al Fucino 209? Non lo so. Per la cucina ricercata, per le birre artigianali o la cocktaileria? Non saprei. Perché è nel centro di Granarolo e parcheggi comodo, sulla San Donato, a 5 minuti da Fico. Perché è un locale curato, ma anche familiare. No, non è per quello. Allora è per i concerti live. Tutte le settimane sul palco si esibiscono band nuove. Sì, le band mi piacciono, ma non è neanche per quello. E allora perché? Fucina 209, non un luogo comune. Via San Donato 209/F, Granarolo. Suoni d'ambiente, quando la musica fa la differenza. Sei un musicista, un artista e le vuoi suonare al cambiamento climatico? Partecipa al contest musicale di Radio Città Fujiko Suoni d'Ambiente con un brano sul tema della salvaguardia del pianeta. Il tuo pezzo sarà trasmesso in radio, verrà valutato da una giuria composta dai grandi nomi del panorama musicale italiano e potrai aggiudicarti uno dei premi in palio. Per informazioni, regolamento e scadenze del contest vai sul sito www.radiocittafujiko.it. Quando la noia ti assale... Cambia musica, ti aspettiamo alla Locanda, un mix di allegria, buon cibo, buon bere e bella gente. Dal 21 settembre al 7 ottobre ti aspettiamo con l'Oktoberfest, una delle feste più belle del mondo. Ogni sera ti aspetta tantissimo divertimento, ma soprattutto la birra, la regina della festa. La Locanda, in via Treves 19, zona stadio a Bologna. La Locanda, ogni sera è un divertimento totale. Le detrazioni per i redditi sopra i 100.000 euro potrebbero essere azzerate, mentre saranno introdotte quelle per premiare i consumatori che pagano con carte o bancomat. Arriverà un fondo per la famiglia da 2 miliardi, dal quale attingere per disciplinare l'assegno unico per i figli, mentre il taglio al cuneo fiscale sale a 3 miliardi. Sono alcune delle misure della manovra al vaglio di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che non ci sarà una rimodulazione delle aliquote IVA, mentre su quota 100 resta sul tavolo la possibilità di allungare di 3 mesi le finestre per i lavoratori in uscita. INPS per tutti contro la povertà. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Bari aderiscono ad un progetto voluto dall'Istituto Previdenziale per favorire l'integrazione sociale, avvicinando le fasce deboli della popolazione ai servizi erogati dall'INPS. Plaude l'iniziativa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Le istituzioni intercettino i bisogni sul campo, dice il Premier, mentre il presidente INPS Pasquale Tridico garantisce ora più diritti per tutti, soddisfatte le 6 amministrazioni comunali. No alla finale di Champions League a Istanbul, lo chiedono il PD e Più Europa, in segno di protesta contro l'aggressione della Turchia alla Siria. La partita dovrebbe tenersi il prossimo 30 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk. Il governo turco viola i diritti umani del popolo curdo, denunciano i due partiti, che annunciano di voler chiedere il sostegno del governo italiano alle istituzioni europee e perché interessino formalmente il presidente della UEFA Alexander Čeferin e i membri del comitato esecutivo, a partire dal vicepresidente Michele Uva. L'importanza di un sindacato libero, l'impegno per il meridione, l'europeismo, questo e molto altro era Giulio Pastore, il fondatore della CISL. A 50 anni dalla morte il sindacato ricorda la sua visione e il suo impegno, valori ancora attuali li definisce la segretaria Anna Maria Furlan. Alla presenza di Sergio Mattarella, Furlan ha ribadito al governo la necessità di investire al sud. Il mezzogiorno rappresenta un giacimento di opportunità, ha detto, deve essere una priorità per tutti. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. What you do to me? I know I can't believe there's something about you got me down.

così non passiamo. Beh, intanto dobbiamo ringraziare e anche essere Gai per il ritorno di Piro al Coxo. Sempre, ormai sono stabile, un po' divento la tavola. Sì, mi sa che bisognerà darti un W d'onore, quasi. Grazie, quasi. Lo aspetto. Ma sei mai venuto insieme a Stefano? No. No? Che domanda è? No, hai mai avuto un coxo insieme a Stefano? Sì, effettivamente la domanda suona un po' a pizzo. Veramente. Sei mai stato su un coxo insieme a Stefano? Comunque ricalcolo, mettetelo pure più davanti che ho abbassato. Ah, ok. Proprio così, diretto. Che proprio proprio come lo facciamo mettere ai nostri speaker. Quello di Stefano, sì, sì. Ok. Ma questo non aspetta. Cosa deve mettere davanti? Il microfono, gli ho dato il gelato perché qua, insomma... Il microfono, noi siamo i boy guy. Allora scusate, boy conducete guy. Un attimo voi, io vado a mettermi faccia al muro, riprendo questa antica punizione. Dov'è la frusta? Ecco appunto. Stefano, è stato bellissimo averti. Hai arricchito tantissimo questa puntata. Un piacerone anche per me, devo dire. Adesso vado ad accendere la radio per ascoltarvi dal vivo. E ci mandi i messaggini, giustamente 333 180 94 94. Sì, fantasioso, non diremmo che sei tu. Molto bene. Okay. Stefano, ciao. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Oh, qua ciao. Siete tutti e tre bolognesi, attenzione a come mettete gli accenti, È l'addizione, sai, è importante. L'addizione. L'addizione. Molto vasco. Va bene, nonno Stefano, ci vediamo lunedì prossimo, che forse non ci sono io. Ci vediamo lunedì prossimo se tu ci sei, perché qua c'è scritto che forse non ci sei, non lo so. Dov'è? Va bene. Ciao. Ciao. Ascoltaci. Ciao. Certo. Ciao. E scriviti con Giffo. Ciao. Allora, bene, questa bellissima brillanzicante introduzione per dire che noi si parla di... Aspetta che c'ho il jingle. A proposito, bisognerebbe dire a Uba di rimandarmi la mail perché... No! Noi quest'oggi... La maledetta tecnologia. Si parla di... Era un metro da te e ormai Uba arriverà. Sì. Che senso ha mandare mail? Ricerca teatro. No. Non ha senso. Allora, noi si parla di teatro, che è anche di ricerca ed è anche performativo. Parlare di amore. Beh, certamente nel teatro di Uba c'è amore, altrimenti voi non sareste i suoi boys da così tanto tempo. Da quant'è che avete scoperto Uba? È ancora sotto le coperte. Cosa vuol dire? È gergo bolognese? No, perché io... Non è riuscito. Non si è scoperto. ci sono arrivato adesso. Se non faccia al muro. Sono facili, non le diciamo. No, faccia al muro è solo per le oscenità o le parolacce. Ok. Va bene. No. Dai, da quando è che hai scoperto? Non l'ho mai scoperto. Non l'hai mai scoperto. Anch'io. Anche brutto da vedere, secondo me, scoperto. Sì. Però cioè, quando... nel senso, è... Comunque è al suo bello. Però quando sul palco fa quella mossina che guarda un po' di lato e muove la buzza da un lato solo. Secondo me ci sta ascoltando. No, adesso. Perché io l'altra quando siete venuti qua, io poi l'altra volta sono venuta in pigiama con sì. I baffi e sono giustamente entrata gratis. Sì, l'unica tra l'altro. Beh sì, infatti avrei voluto una menzione speciale, ma in realtà non si sono accorti neanche del pigiama, gliel'ho dovuto dire la volta dopo che mi ha detto allora vado in radio a trovare. Ma come eri vestita quella sera? Però mi sono fatta una foto e c'ho anche i baffi, il che è tutto dire, la svela un pochino su quelle che sono le amenità di questo tipo di ricerca teatrale. Comunque, siccome noi non abbiamo il branino con cui introdurre la puntata perché non è ancora arrivato ovviamente, siccome noi non abbiamo ancora l'ospite del come vogliamo, non lo so, mi fate voi un piccolo introduzione musicale o metto io un brano un po'. È arrivato un ospite, eccolo. Qualcuno... Comunque se posso parlare d'amore volevo dire che amo Stefano. Pasquini? Sì. Ti capisco. Siamo... Sì. Siamo già in due. Siamo abbastanza in molti. Intanto io per introdurre e aprire il campanello metto questo brano. Scopriremo anche Stefano. Way. Piace per Amy Winehouse, però ormai è arrivato lui, the voice of 282esimo Coxo. Buonasera signora. Oh, mamma mia. Buonasera. L'avevo detto il volume. Vai un metro di. Scusami. Vai, fai vai. Finta di non sentire. Rimetto questa Amy. Cosa. Perfetto. Okay. Non toccare il microfono, mamma. Perfetto. Ma, quindi, ma sono veramente boys così fan oppure hanno dei luoghi specifici nella tua produzione? Ma guarda, sono dei fan sfegatati, me li trovo ogni data praticamente, che mi lanciano le loro mutande sul palco, cosa di cui farei anche a meno, peraltro. Potevi dirselo prima, però. Però così io poi non le devo più comprare, capito? Sì, ma le compro io, che dopo le, cioè, sputtano soldi in mutande tutti gli con tanto amore. Sì. Ok, allora continuo. Comunque sono sfegatato perché, scusami? No, l'ho sfegatato. Perché io bevi sono tanto, quindi esatto. Ormai. Sì, diciamo che sei un bolognese veneto d'adozione. Sì. E quindi questa col computer può far tutto. Non l'ho capita, tu l'hai capita? Niente, no, citazione. Mi allora, piacciono lanciare le mutande, ha detto mi piacciono lanciare le mutande. Allora, Uba, il 281esimo Coxo ha una visione che parte da un metro da terra, dico bene? Esattamente. Perché? Esattamente. Perché? Diccelo. Perché mi sono reso conto nel corso del tempo che i bambini sono più intelligenti degli adulti. Oh, davvero? Ebbene sì. Questa là è una bandiera sotto cui tanti si vanno. Ebbene sì. E l'ho notato perché le mie battute effettivamente le capiscono i bambini e gli adulti a volte faticano. Ci arrivano dopo. Una volta uno mi scrisse una settimana dopo dicendo ah, ho capito la battuta delle rane. Una settimana dopo, mi capita spesso. E invece suo figlio, gliel'ha spiegata suo figlio, esatto, assolutamente. Ma c'è uno sconto per i bambini? Sì, i bambini entrano pagando 4 euro, quindi meno della metà. E anche se in realtà c'era in ballo un'idea rivoluzionaria. Sì, assolutamente rivoluzionaria. Cioè, quindi qui il boys diventa manager. Dai ragazzi, vai, prego. Quindi, scusa, adesso me la sono un attimo persa, però. Ma come so che era rivoluzionario. È talmente geniale quest'uomo che ha le idee geniali e poi le mette da parte. No, però in effetti è vero. L'idea quindi geniale il bambino era. Entra pagando i genitori accompagnato da un adulto che entra gratis. Però paga sempre la metà? No, pagano l'adulto solo i bambini. Gratis. Questa era la rivoluzione della nuova linea produttiva. Sì. Gli adulti accompagnati entrano gratis. Questo lo faremo al prossimo spettacolo. In realtà è una bomba. Meravigliosa. Beh, intanto il super mega galattico ospite del 282esimo Coxo, 82esimo Coxo, è Uba. Ciao. Ciao, buongiorno, caro. Piero. Buongiorno Piero. Poi ci sono Piero e Bond, che sono le colonne portanti che sostengono in tribù gli Uba Guys. Molto gaissimi. In realtà spendiamo due parole su questi loschi. Spendiamoli figuri. Volentieri. Dunque il Bond, che io chiamo amichevolmente vecchia spugna. O lavandino. O lavandino. C'è un po' la risata da Matley, Piero, oggi. È un Uba Boys da quanto? Quando saranno 16, 17, 18 sì, anni più o meno? Sono nato Uba Boys. Esatto, un po' sotto la mia ala, diciamo. Sì, no? Sì. E si occupa anche che della. Puzza. Si occupano anche sempre della. Sempre per stare sotto il metro. Si occupa anche della produzione, quindi sì. Il Bond. Famoso fonico ormai in tutto il mondo, sì. Non sto scherzando. Ah, di ritorno da una tournée così provato, è stato in America Latina. Pazzesco, è in giro dappertutto. Ho dovuto anche coniare un terzo nome per l'America Latina? Per non farmi riconoscere. Qual è? Se no sarei troppo famoso. Condor. Condo. Condom. Ebbene, quindi dicevo, Cozzo. Manager, produttore, uomo dei mille talenti, anche piuttosto avvenente, devo dire. Voi purtroppo in radio non Ma ci sono le foto che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Però sentite che voce, senti che profondità. Senti come impasta bene il E poi abbiamo Piero. Piero, anche lui uomo non di mille talenti, ma che di mille talenti, di mille uno almeno talenti. Facciamo 1.300, che comunque è già il terzo coxo che si fa sto mese. Sì. Prezzemolo. C'è la frutta, ragazzi. No, il prezzemolo, condimento. No, in realtà è la seconda volta che... È la seconda, ma tornerò presto. Sì, abbiamo già concordato una data in cui sarà unico e solo guest. Forse se volete venire gli Affari Boys possiamo accettare. Si potrebbe fare. Star voi dietro e io davanti. Seguitemi, ma sei fermo. E... sono cocci basta. Allora 333-180-94-94 se volete dare contributi, domande, vincere biglietti di questo spettacolo di cui stiamo parlando, con uno spettacolo di Ubba, esatto, che è un messaggino che è arrivato per caso. Forse è arrivata la pizza. Sì, c'è un messaggino, guarda, basta chiamarli, arrivano, vediamo se ecco. Il messaggino dice: ho una menzione, te la scrivo qui. È Stefano, il mio co-conduttore. Coco Coxo. E lo spettacolo si intitola precisamente? Dunque, lo spettacolo si intitola Ubba Live Comedy numero 88, sottotitolo Il mondo è alto un metro. Siamo sicuri? Sì, assolutamente sì. Racconta il mondo visto da altezza un metro. Dove e quando? Sì. Dove e quando, Teatro del Barracano, via Santo è via Santo Stefano. Tipo, non vedo quelle parti lì. Facciamo lo spettacolo lì anche l'11 maggio, non ho trovato il posto, alla fine l'ho fatto in Piazza Maggiore. No, vabbè, vicino a Piazza del Barracano e Teatro del Barracano, ore 8:30, sabato 19 ottobre. E se si viene in pigiama si entra gratis. Questo sempre ai miei spettacoli, sempre. Io ci sono andata e sono entrata gratis. È vero. È vero. E avevi anche i baffi quella volta lì. Me li avete dati all'entrata. Questo è vero. Vedi come si scordano in fretta le idee geniali. Oddio mio. Ma un'altra domanda. Ma tu hai detto che è Ubba Live Comedy numero 88. Anzi. Era 82 prima. Era family 82 family. Prima. No, era l'83 a maggio. Ah, ok. Poi ma tu ne hai fatti veramente così tanti? Sì, sì, li numero. Sì. Quando è stato il numero uno? Il numero uno, ho iniziato con un open mic, quindi ho fatto solo 5 minuti. A Milano, adesso non mi viene in mente il posto. In Piazza del Barracano, circa. Sì, sempre in piazza, non trovo mai i posti, capito? E ti parlo di 10 gennaio 2016, 3 anni e mezzo fa. Poi in questi anni ho fatto tanti open mic... Quindi il numero cresce. Sì, un open mic è quando sali fai solo 5 minuti, diciamo, no? Quindi fai 5-10 minuti, poi inizi a farne 10, poi inizi a raccogliere il materiale, buttarne tanto, metterne altro da parte e inizi a mettere sul monologo e poi inizi a fare monologhi, insomma. Quindi in realtà il numero di queste apparizioni parte dal primissimo open mic, che faccio il monologo completo, quindi di un'ora, dallo spettacolo vecchio, diciamo, a questo che è quello nuovo, sono gli ultimi 20-30 spettacoli più o meno. E voi? Ubba Boys. Comunque l'intenzione è superare le puntate del Coxo alla fine. È una gara. Ah sì? Beh, effettivamente noi facciamo una settimana, siamo arrivati a 282, sì. Cioè nel senso ce la puoi fare, tre anni. Aspetta. Una passeggiata. Sì, adesso andremo avanti e ne faremo ancora con buona pace del nostro direttore della radio. Sì, poverino, lui non gli piacciamo, però ci siamo e quindi... Come non gli piacete? No. Questo è un problema. È un problema suo. Io ho detto all'inizio che non è una radio seria. No, questo non è accettabile. Perché? Cioè, diciamo qualcosa al direttore della radio? Sì. No. Non diciamolo, diciamo, del resto... Diciamo che gli vogliamo bene, che questa trasmissione è meravigliosa e va tenuta perché ha sempre degli ospiti meravigliosi tipo oggi. Tipo sì. Noi, sì. Ah beh, sì, ogni settimana un ospite diverso, questa conduzione amichevole. No, vabbè, comunque la questione è semplicemente che siamo, secondo lui, siamo un po' cocconi. E lui invece è uno serio che fa tutte le cose serie, mi sembra anche giusto. Okay. Però, giustamente, siccome anche rispetta la libertà d'espressione, ci tiene. E finalmente, dopo 2 anni che glielo chiedevamo, ci ha messo di lunedì. Grazie. Quindi scusami, no, allora scusami, però qui è il ribaltamento della cosa. Sì. Ma allora vi sostiene, non vi sta, vi sostiene, vi ama. Alla forse, follia come noi. Forse in qualche modo ricondito nell'ultimo dei giri del suo subconscio. Magari. Vi ama. Però... Grazie per avermi messo il lunedì. Oh, direttore, direttore. No, questo qui. Sta partendo uno dei brani dello spettacolo. Bene, grazie. In fondo Alessandro ci vuol bene, dai. Ma sì, ma penso anch'io. Alejandro. Come sì. Stefano, in fondo come Stefano. No, no, ma tornando a noi ragazzi, sì. Voi che non l'avete mai scoperto fino in fondo, no. Uba. Però non lo sappiamo chi è. Però caldo, molto caldo, potrei scoprirlo. C'è stato un momento in cui l'avete incontrato e avete detto sì. Sì. Okay. Lui... Cioè, ci siamo incontrati e lui ha detto sì e noi eravamo d'accordo. Ok, da quanto lo seguite? Quanti di questi 86 Yuba Show avete visto? Lo stiamo seguendo da quando ci hanno chiesto di investigare su di lui. E, però poi, nel senso, è diventata un'abitudine, un modo di essere. Noi seguiamo Uba, e, tentando di scoprirlo, tra l'altro, ma non si fa raggiungere, non possiamo scoprirlo del tutto. Però un po' sì, cioè tipo la spalla. Qualche volta. Vista. Un po'. L'occhio. L'ascella, sì, per forza, perché ci sei stato sotto. Chiaro. E che dire di Uba? È imprendibile. Poi soprattutto che cambia altezza. Sì, cioè, pensi che sia alto, in realtà è alto 1 metro. Uh-huh. All'occorrenza. Anche perché l'unità di misura non prevede. Microfonizzati. Sono micronizzato. Sì, ma sta gesticola. Tiro su. Quanti metri ci vogliono? Proviamo così. Vabbè, vale, diciamo che l'altro giorno avevo deciso di misurare quanto sono alto, quindi ho preso il metro. Però così alla fine hai deciso di fare 2 spettacoli. Bella questa. Teniamola. Sono per la prima partita IVA, potrei chiedervi sta con una fatturina. Non parliamo di partita IVA. Vai, allora, quindi? Oh ragazzi, fermi. Ci sono le pubblicità, fermi. Già. Sì, il tempo vola. Oh. Suoni d'ambiente, quando la musica fa la differenza. Sei un musicista, un artista e le vuoi suonare al cambiamento climatico? Partecipa al contest musicale di Radio Città Fujiko Suoni d'Ambiente con un brano sul tema della salvaguardia del pianeta. Il tuo pezzo sarà trasmesso in radio, verrà valutato da una giuria composta dai grandi nomi del panorama musicale italiano e potrai aggiudicarti uno dei premi in palio. Per informazioni, regolamento e scadenze del contest vai sul sito www.radiocittafujiko.it. Amo, abbiamo provato al thailandese? Sì. E al boliviano? Ma che boliviano? Io vorrei mangiare romano. Vorrei una pinza, una carbonara, una cacio e pepe come si deve. E poi porchetta d'ariccia, coda vaccinara. E allora andiamo alla romana, in centro a medicina. Loro non fanno cucina romana. So proprio romani. Guarda su allaromana.it oppure cerca la romana su Facebook. Via Saffi 13 a medicina, alla romana. C'è stato spazio pure per i pupi. E andiamo? Quanto sei bella Roma. Al Box Club di Nonantola riprende una ricca stagione di concerti. Venerdì 25 ottobre Marlene Kunz, sabato 26 ottobre Lazza, venerdì 29 novembre Incognito, sabato 14 dicembre Wrong on You. Vivi la musica al Box Club. Biglietti disponibili tramite il circuito Ticket One e Boxer Ticket. Info Studios 059 45 1646. studios@studiosonline.it. Cox spaziale. Cosa è successo? Lo sapete voi? No. Io sì che lo so. Non è partito il player. Ho fatto questo stacco meraviglioso e non sta partendo neanche la musica di sottofondo, mi sembra. No, non diamo per favore adito ad Alessandro. Di Appigni, interrompere però, questa meravigliosa tradizione. No, perché, scusate. No, comunque la questione è che, ragazzi, a grandissima sorpresa, anche questa settimana c'è. Io non lo sapevo, ma c'è. Eccolo qui. L'angolo della menzione. Ve l'aspettavate? No. Neanch'io. Invece Stefano, che doveva mandarci i messaggini in realtà ci ha mandato una bella menzione. Sabato 19 ottobre, che è lo stesso sabato in cui c'è il tuo bello spettacolo, giusto? Vabbè, passiamo oltre però. Alle ore 17 però prima, certo. Scampoli di Gianni Nieddu. Noi aspettavamo altri ospiti per caso? Avevamo qualche altra sorpresa? Boh, so se c'è un... Uba gay giovane. Ok, sì, allora giovane. Leggo la menzione e poi vado a prenderlo. Allora, Scampoli di Gianni Nieddu, secondo appuntamento in un ciclo di mostre dedicate all'illustrazione e al disegno, ideato e curato da Patti Campani per gli spazi di Farm Café. A con parole tue. Farm Café, Via Rialto 22, Bologna. Finito. Lo rileggo? Vuoi sì. Rileggerlo tu? No, comunque... Leggilo per noi perché magari il pubblico... No, comunque, da domani o quando Stefano deciderà, su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per sapere meglio delle menzioni, fra cui anche quello che dovete andare a vedere dopo questa esposizione, che sarà in via Santo Stefano al Baraccano e si chiamerà Uba live comedy numero 88. Sottotitolo: Il mondo è alto un metro. Ah, è uguale a prima. Bravo. Ci ho pensato un casino. E noi riprendiamo da qui. Riprendiamo dalla magia che fa sì che ci possa certo. Essere tutta questa braga in studio da noi per questo Cox 282esimo. Siete tutti tra l'altro vestiti di scuro da bravi teatranti. No, sono solo magliette molto sporche. Da bravi teatranti, anche un po' tecnici. E beh, a questo punto salutiamo anche i rigger che stanno montando corteo a Pesaro. E come continuiamo? Ciao Eros. Possiamo parlare Uba, che assolutamente. È qui, si è materializzato qui. Ma a proposito, Stefano chiedeva al mio co-conduttore se potevate cantare un jingle di Coxo Spaziale. Beh, ma mi sembra assolutamente sì, giusto? 1, 2, 3 Coxo spaziale. Vabbè, poi magari lo rifacciamo. Sì. Allora, vuoi dire che ci siamo esercitati un anno? Sei partito sul 3. Devi andare in si bemolle. Il si bemolle ci vuole sempre. Tante volte ve lo devo dire che il futuro sono i brani in 7/8. Oh, ma allora facciamo un excursus. Quindi se adesso c'è Uba Live Comedy Show 86. Adesso te lo scrivo. Grazie. Però parliamo anche del fatto, cioè il motivo per cui è indirizzato a un pubblico eterogeneo. Certamente. Diciamo che quando inizia, questa è una domanda seria, quindi posso dare una risposta seria. Sì, certo. Sorvolerò su quel fatto del rapimento di peluche per quale sono indagato. Io non c'entro, era stato Bobby Gambaglione. Dunque, quando ho iniziato a fare stand-up comedy in Italia, sono entrato in questa scena di stand-up in cui in realtà la comicità parla di tutto. Come si sa, spesso i temi della comicità sono la politica, la morte, il sesso. Quindi è chiaro che è un panorama, diciamo così, adulto. Ho sempre avuto però invece io come fonte di ispirazione artisti che si muovevano più sugli aspetti surreali e avevano sempre un vocabolario e una serie di argomenti puliti, perché diciamo mi sono sempre piaciuti quei tipi di artisti lì, partendo da Andy Kaufman per arrivare a Mitch Hedberg, per arrivare a Reggie Watts, e quindi ispirandomi un pochino a loro ho preso questa via di una comicità pulita che non parla di temi, diciamo così, volgari, eccetera, ma può piacere a tutti. E quindi di conseguenza, a un certo punto mi sono detto, piuttosto che stare a spiegare a quelli che fanno stand-up, al pubblico della stand-up comedy, che io faccio una stand-up di un certo tipo, mi conviene sganciarmi da questo concetto di stand-up comedy e andare su un concetto invece di UBA live comedy, cioè un tipo di comicità che è fatta così, che piace a tutti. Lo spettacolo, anche quello del Baraccano di questo sabato, dall'inizio alla fine è per un pubblico di bambini dai 6 ai 99 anni e divertirà tutti, almeno questa nelle intenzioni, che dall'inizio alla fine sia divertente per tutti. E i 100 no? Allora, i 100 no, però il sindacato dei 100 mi ha già scritto dicendo: guarda, vorremmo venire anche noi a lanciarti le mutande con i pannoloni. Sì, però tu giustamente hai risposto, però paghi, certo. Okay. Lo spirito imprenditoriale, neanche di fronte ai pannoloni, no, sembra no. Giusto. Bravo così. No. Ma sono stata a vedere lo spettacolo di cui sei venuto a parlare l'altra volta, che era il numero? 83. E sono rimasta particolarmente colpita da quella mossa che facevi, guardando un po' a sinistra di tre quarti e muovendo però la buzzetta dall'altra. Poi in radio viene benissimo. Sì. Come sei giunta a tale sintesi? Ma diciamo che... bella domanda. Perché proprio la trovi una sintesi, comunque, sì. La trovi una sintesi di quello che faccio, giustamente. No, perché è una sintesi, cioè restituisce molto del personaggio, della ricerca, di come sei arrivato a una sorta di, certo, lente di ingrandimento attraverso cui rivedere il mondo. Tu sai, no, il detto del dito e della luna, no? Cioè il saggio indica la luna e lo stolto guarda il dito, giusto? Oddio, qua mi arriva una mazzata. In quel caso, il saggio guarda e ride del movimento della mia pancia e lo stolto invece guarda dove guardo io. Cioè è un depistaggio di strabismo, praticamente, che ti porta a distinguere il significato e il significante delle battute che faccio. No, è proprio vero, perché poi sai che quando per leggere i movimenti si attivano i neuroni specchio, no? Quindi io nel profondo, per capire il tuo movimento, li pratico a livello passivo i movimenti stessi. Allora Bond, però se mi porti da una conduttrice così colta e preparata me lo devi dire prima. Scusa. Io mi preparo sui neuroni specchio, sulla fisica quantistica. Ma potrebbe essere il tuo prossimo spettacolo sui neuroni specchio? Potrebbe esserlo. Sarebbe molto bellissimo. Sarebbe bellissimo. No, e io in effetti nel guardare sono rimasta molto affascinata da quella cosa, perché mi hai fatto fare, guardandoti nel profondo, un movimento che non avrei mai pensato di poter fare in vita mia. Ok, interessante. Comunque il direttore mi ha detto che era una cretina, per quello che siamo qui. Ah, per quello. Una coxina. Purtroppo. I sindacati, sai com'è. Che ha detto, in realtà ha detto solo neuroni specchi, non è che ha detto cosa, cioè, nel senso. Possiamo anche tu dici? Sì, cioè. È una citazione a vuoto. Cosa vuol dire neuroni specchio? Non lo so, dovremmo chiedere a lei, non lo facciamo per non mettere l'imbarazzo. Il problema qual è del movimento della pancia, no? Che la pancia, quando è così sviluppata come la mia... Tonica, peraltro. Tonica, molto tonica, perché in realtà è tonda, ma... come posso dire... soda. Sì, molto soda. Diaframma. È tipo la tartaruga, no? Però c'è la tartaruga bombata. Come in realtà le tartarughe sono. Il carapace, dici. Posso dire carapace. Controbattiamo colpo su colpo la cultura di questa conduttrice. Neuroni specchio, carapace. Spacca. E quindi la pancia, quando è così sviluppata... Cos'è? Chi è che ha mangiato un fagioli qua, ragazzi? Però sembra... C'è anche del... sta accelerando. C'è anche della vibrazione del suono. C'è uno scooter nei microfoni. No, praticamente quando si ha questa pancia qui è come una... cioè tu hai due braccia, due gambe, ok? Quando hai anche la pancia si aggiunge un'estremità al corpo. È un arto anch'esso, e quindi anch'esso si muove, acquista vita propria e può interpretare sentimenti, riflessioni interne, stati interiori. A questo punto, anche perché il mixer ce lo chiede, sì, manderai un brano. Vabbè, Beh, tu hai detto che era proprio, se proprio dobbiamo, è così, poco serio. Eccoci tornati di nuovo in studio in diretta per la 282esima puntata di Coxo Spaziale con Ubba. Buonasera. Che insieme ai suoi boys è venuto ad introdurci allo spettacolo numero 86, che io non ce la faccio a dirlo. No, però... sbagliato. 88? Ma un bel numero 88, perché non mi entra in testa? Ah, non so, forse perché... Ma l'86 di cosa parlava? Di cosa parlava? Il mondo visto, il mondo è alto 98 centimetri, 2 centimetri di meno. Bene, bene, bene. Allora, è arrivato un altro messaggio che recita: se non descrivi perché ridi da casa, non fa mix a ridere. Ok. No, rifai. Non lo so. Allora, se non descrivi sì. perché ridi da casa, non fa mix a ridere. Sempre Stefano che cioè me dovresti scritto. Descrivere perché ridi da casa, ma tu sei qui adesso. Sì. No, vabbè, penso che sia perché ho letto male la menzione, la rileggiamo in chiusura. Sì. Va bene. Sì. Ah, però certo, continua a esserci questo... Questa pernacchia. Allora, vediamo un po'. Vabbè, dai. Santi Numi. Cos'hai numi. Fatto? No, ma cioè, vuoi venire a dare un'occhiata di qua, tu che sei il produttore? Tecnico. Ci sente un po' fonico meno. Bravo. Sì. Non un fonico QB. Ho sempre detto che è così. Non so che dirvi, so cose che capitano, ma noi siamo acrobati della diretta e quindi porteremo a casa anche questo coxo. Assolutamente sì. Magari alzo di più la musica di sottofondo così. Per dire. Per dire. Allora, dicevamo, è arrivato un brano, quello che doveva arrivare all'inizio della puntata, finalmente è riuscito ad arrivare alla via mail. Vogliamo provare a sentirlo? Mm-hmm. Vai. Ci va? Fantastico. O è troppo presto per dell'altra prego, musica? Prego. Ma sei sicura? Non lo so, ho paura. Vediamo. È questo? No, non è questo. Però canti bene. Allora, no, forse è arrivato, forse è arrivato. Però non so se con questo, ecco, è in play. E adesso sentiamole queste poesie. Se avessi saputo che in mezzo a GPL non possono sostare nei parcheggi sotterranei, non avrei mai, mai, mai comprato una mongolfiera. L'altro giorno ho forato, ho dovuto perché mi era diventato impossibile andare dritto con solo 3 ruote a terra. C'è da dire che comunque mi ritengo un ragazzo fortunato, anche perché fino a 5 anni fa ero un albero. L'altro giorno sono andato al ristorante, ho ordinato delle uova e del pollo. Il cameriere mi guarda e mi fa: porto prima l'uovo o la gallina? Non so, ci siamo guardati per 2 ore e poi ho detto: senta, mi porti il dolce. Comunque sia, l'altro giorno ho preso un pollo, l'ho messo nel forno, poi ho preso il forno, l'ho messo nel frigo. Ora, se voi conoscete un modo migliore per conservare il pollo a temperatura ambiente, vi prego ditemelo, perché io sto impazzendo, eh. Non sono molto bravo a cucinare. No, veramente. Una volta ho sbucciato un uovo crudo. Ora entriamo nella sezione del pezzo, quella seria. In cantina tengo le cose che non uso mai. Infatti, ad esempio, in cantina io tengo una cantina che non uso mai. E questo mi porta ad avere la cantina talmente piena di roba che mia suocera è costretta a dormire in piedi. Tanto, cioè, circa un anno fa abbiamo fatto un viaggio in Cina con la famiglia, abbiamo portato anche mia suocera. Da quando siamo tornati lei mi chiama tutte le mattine alle 11, ma io appena vedo che il prefisso della chiamata è cinese metto giù. Devo dire che rende molto più l'idea di tante tante parole spese qui dal nostro ospite, dalle mie memorie, dal nostro co-conduttore, dai suoi sostenitori. È così, eh? Sì, questo è un estratto di un live, lo trovate anche su Spotify, perché è un disco pubblicato su Spotify. Sì, è vero. E quest'altra cosa da dire, dove ti si trova? Esatto, se su Spotify cercate Ubba ci sono tanti dischi musicali fatti insieme al Bond, peraltro. E poi c'è anche il disco di stand-up comedy che si chiama Le rane saltarono, da cui era preso questo brano, che è un estratto di una esibizione dal vivo, quindi col pubblico lì nel locale. Ah, perché le risate, cioè, non me le vendi? Erano perfette quelle risate come sottofondo, ma quindi erano persone reali che ridevano dal vero? Sì, ce ne sono poche, però ridono molto. Bene, allora, musica però anche, perché c'era sempre questo sottofondo di... c'era un po' questo, c'era una tastiera che usavi in questa occasione? Sì, in quel caso sì. Però sì, c'è anche all'interno dello spettacolo ci sono anche 2 brani musicali originali suonati con la chitarra, che andranno poi a far parte di un prossimo disco che faremo insieme al Bond. La band si chiama Ubba Bond. Quindi sì. Numero? Sarà il prossimo sarà il numero 7. Top. Intanto. C'è un libro in corso prossimamente. Ah, c'è anche un. Prego, Piero. Ubba Piero, ci sarà anche un libro di vignette. Ah, moltiplica. Ma quindi quando torni tu, torna anche lui? No, quello è. È un altro. Quello è un altro. Sì. Che lo tenga lì. Io non so. Ma si sente. Mi metto qua. Meglio. Io devo dire che adesso, tornando un attimino seri, sì? In realtà incontrare loro due è un po' anche l'universo che gira intorno a questi due soggetti. È stato molto bello perché a me piace creare in maniera creativa anche con degli altri, e quindi con loro è molto facile perché sanno costruire sulle mie idee, io costruisco sulle loro, e quindi col Bond a livello musicale, a parte che il Bond collabora anche per la regia e mi aiuta, diciamo, a costruire anche lo spettacolo, per cui c'è anche una collaborazione sulla parte comica, e quindi col Bond sia musica che comicità, con Piero le battute diventano vignette. Lui è molto bravo a disegnare, quindi diventerà anche un libro di vignette. Quindi mi piace questa uscita dagli schemi ridanciani che hanno caratterizzato questa puntata. Andiamo a presentare in maniera ortodossa i nostri Ubba Boys. In realtà abbiamo Andrea Bondi. Sì. Ciao. Che nello specifico vuoi introdurlo tu? Cosa fa per te, via dicendo? Beh, il Bond è una delle persone, devo dire, più talentuose che conosco. È un grandissimo musicista, un grande fonico, ha delle grandi idee di arrangiamento e di scrittura per i brani, quindi facciamo i dischi insieme ormai credo sia dal 2011. Sì. Conoscere Ubba in questo senso è stato molto stimolante, abbiamo fatto un sacco di roba insieme e ci ha fatto anche scoprire insieme che i percorsi musicali soliti sono forse troppo limitanti e siamo andati oltre gli schemi, sia da un punto di vista di composizione che da un punto di vista di arrangiamenti e arrangiamento audio, quindi sono cose molto sperimentali nella musica che facciamo insieme, e sono molto contento di questo perché è, diciamo, la sintesi della mio o nostro essere artisti, quindi ignorare la moda e generare cose proprie, totalmente personali, prive di scatole o etichette. Altro Ubba Boys, Piero. Andrea Piromallo. Ubba Boys, devi chiamarti Andrea. Questo è chiaro. Avviciniamogli un po' il microfono centrale perché. Aspetta, che questo non va. Quindi. Praticamente come scusate, se non ci fosse. Sentite, eccomi. No, dicevo. L'avrete sentito comunque, cioè gli Ubba Boys per forza si chiamano Andrea. Chiaro. E infatti anch'io per dirigere questo coxo mi chiamo Andrea. Sì. Andrea Ziboscaro. Bello però, Andrea Boscaro va bene. Infatti quando arriva, insomma. E se non sbaglio, quindi la collaborazione con la grafica, ma anche il suono sul palco, dico bene, Piro? Il suono sul palco? Lì è un'apertura mia, per conto mio, ma non collegato a lui. Ah. No, il suo spettacolo è il suo, io al massimo lancio tappi. In effetti l'ultima volta mi hai fatto lanciare un tappo e mi hai offerto dei baffi o delle sopracciglia. Dei baffi, sì. No, erano baffi. Ok, va bene. Dipende da dove li metti poi. Poi, e appunto... con lui si è costruito tutto un mondo disegnato di tutte le sue battute ricostruite. E quando è che se ne potrà parlare qui in radio? Presto, anche quello secondo me inizio fine dell'anno anno prossimo, sì. Avremo covato un coxo 2020. Mm-hmm. brava. Uno okay. dei primi abbiamo già tre puntate, uno lo spettacolo teatrale, uno il disco in uscita, il mio libro solo in uscita, il libro della, di Piromallo. Stiamo facendo la trasmissione. E intanto qui continua ad essere fruttifero il carteggio tra me e il mio co-conduttore Coxico, che ci ascolta da sì. casa. Diceva: giustamente menziona. Intendevo che se sentirvi ridere, senza sapere cosa state facendo da casa non ci fa capire cosa vi fa ridere. Ah sì, essere un po' più descrittivi in quello che stiamo facendo. Quindi stiamo ridendo, in realtà io sto guardando la buzza di Umba, il gomito di Umba, ah. e penso che sia la buzza. Mi sto grattando il pizzetto e vorrei scoprirlo, quindi tento, prendo la coperta che lo copre, lui scappa. E questa cosa non mi fa ridere per nulla. A vederla, cosa descrivi? A vederla. Però mi ricorda il numero in cui abbiamo avuto l'illusionista, che era uno che parlava in francese ed è venuto a ipnotizzare gli ascoltatori del Coxo. Come? Cioè, parlando in francese. Ok. Non so se ci sia riuscito, però c'era anche Cliscia Bobo Pigamago, insomma, lei forse un po' l'ha ipnotizzata. Chi? Cliscia Bobo Pigamago. Come hai fatto a dirlo così in fretta? È perché c'ho pratica. Ah, yeah. Sai, no. 5 anni di conduzione coxica. Ci prepariamo per la prossima volta. Sì. Ma non si può mettere una webcam? Sarebbe bellissimo, ci stiamo lavorando con i soi, con i pensieri da tanti tanti anni. E, però volevo dirvi che tra un po', questo è il momento un po' X, perché a breve, ecco, sono comparsi gli spot della che annunciano la chiusura della trasmissione, quindi forziamoci verso i saluti. Quindi ricordiamo assolutamente l'appuntamento 8:30 sabato 19 ottobre, Teatro del Baraccano. Per il numero 88. Per il numero 88 dell'Uba Live Comedy. Il mondo è alto un metro. Il mondo è alto un metro. Il biglietto intero costa 10 euro, è ridotto costa 4. Chiunque viene in pigiama, adulti, entra gratis. Bambini no? No, i bambini non pagano. I bambini pagano. Pagano o non pagano? Pagano. Doppio. Doppio. Va bene, allora. Grazie mille. Venite perché sarà una bellissima serata, veramente. Sono serate belle. Grazie mille, Uba, per essere stato con noi. Grazie mille, Andrea e Andrea. Grazie a te. E allora a presto, di sicuro al 19, che il pigiama ce l'ho ancora dall'ultima volta. Fantastico. Con i bambini è gratis. Scende il microfono. Scende il microfono. Andrea Boscaro è il titolo del prossimo album, giusto? Beh, assolutamente sì. Okay. Andrea sì, Boscaro, mi chiudete con un jingle del Coxo? Andrea Boscaro. Non ce l'ho sempre parato questo, però. No, non fate un po' di nuovo quello di prima. Ma io faccio la ritmica. Il Coxo, il Coxo, il Coxo. Ci ha rotto il Coxo. Spaziale.